Stefano. Sei tu? Sì, sono io, Stefani. Senti, mi dispiace veramente per te. Ti dispiace? Sì, mi dispiace, Stefani. Beh, non succederà più, te lo prometto. Ho solo veramente bisogno di parlarti. Cosa? Come sarebbe a dire che hai bisogno di parlare con me? Sarebbe a dire che ho bisogno di parlarti. D'accordo. Senti, se apro questa porta tu non ricominci con quelle storie, va bene? No, ti giuro di no. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Teletrasporto attivato ed eccomi arrivato a bordo dell'astronave Enterprise. Ci siamo, siete pronti ragazzi e ragazze? Questa sera una puntata specialissima di Star Trek, una bellissima, bellissima puntata veramente. Quindi il mio invito è quello di rimanere qua all'ascolto della trasmissione, perché si parlerà di un film meraviglioso e di altri film magari un pochino definiti minori che però hanno preso spunto da questo capolavoro per creare comunque delle opere cinematografiche direi discrete. Il film in questione è Saturday Night Fever, ovvero La febbre del sabato sera. Ne parleremo quindi dopo la prima canzone. Anzitutto mi presento, perché insomma è sempre giusto presentarsi. Buongiorno se mi ascoltate di giorno, perché questa trasmissione va anche in replica, oppure buonasera se ci ascoltate in questo istante in diretta live. Io sono Andrea con voi. Immaginate insomma una sorta di sostituto del capitano Kirk che vi porta per mano alla scoperta di ogni cosa concernente la musica, il cinema, il teatro, eccetera, eccetera, eccetera. Questa sera una puntata specialissima dedicata al cinema, però insomma al cinema direi in musica, ecco, perché ascolteremo proprio le colonne sonore di alcuni film. Vi ricordo il mio account Twitter, se magari volete interagire con la trasmissione, che è il seguente, @demangia. Poi invece abbiamo come di consueto il mio sito blog, che è raggiungibile a questo indirizzo, www.startrekonline.org. Lì trovate il mio blog che aggiorno saltuariamente, soprattutto con delle foto, e potete anche ascoltare proprio la diretta oppure le varie repliche di Star Trek. Ma come si diceva un tempo, non perdiamo tempo e rapidi e veloci come i sommergibili, apriamo proprio la nostra trasmissione con la colonna sonora, una delle tante colonne sonore di Saturday Night Fever, ovvero La febbre del sabato sera. Il primo disco è intitolato semplicemente Manhattan Skyline, estratto sempre dalla Febbre del sabato sera. Manhattan Skyline, canzone estratta dalla colonna sonora del film Saturday Night Fever, ovvero la febbre del sabato sera. Io sono stato in piedi tutta la notte a camminare. Ok. Credo che mi prenderò una casa mia, lo sai cosa faccio? Sì. Mi faccio dare quello che mi spetta e vengo qui, capito? Scusate, ma Tony Manero si è impossessato del timone dell'astronave Enterprise. Dimmi, Tony, cosa volevi dire? Non ho capito. Te l'ho detto io. Sì. Io non ci torno e basta, ecco. Ok, se non vuoi tornare, non tornarci, ma cosa vuoi? Come che faccio? Me ne vado? Ho capito che se ne vuole andare, ma mi sa che se ne vuole andare con il timone dell'astronave Enterprise. Era lui, era, però scusate ragazzi, mi impossesso ancora della nave. Ecco qua, l'ho mandato giù Tony Manero, che si è impossessato un attimo dell'astronave Enterprise. Scherzi a parte, siete sempre all'ascolto di Star Trek, Viaggio nella storia della musica. Io sono Andrea, rimarremo insieme per circa 30 minuti di musica, curiosità, e chi più ne ha più ne metta. Ebbene, abbiamo ascoltato la prima canzone, che si rifà per l'appunto al film La febbre del sabato sera, che è un film musicale uscito nel 1977, diretto dal regista John Baldman, ed è interpretato per l'appunto da John Travolta, che è il personaggio principale di questo capolavoro. Cioè, John Travolta, come ben sapete, è appunto appunto l'attore principale, ecco. Vediamo un pochino il film. Si tratta di un film molto importante, tra i più celebri e importanti della storia del cinema. La pellicola, grazie anche all'interpretazione di John Travolta, ottenne la sua definitiva consacrazione. Viene concepita come un vero e proprio omaggio alla disco music e al glam che appunto ha dominato gli anni 70. Le musiche vengono arricchite dai successi musicali in voga all'epoca, tra cui spiccano le canzoni originali dei Bee Gees, ma non solo, anche altri interpreti hanno appunto partecipato al soundtrack della febbre del sabato sera. La trama tratta comunque tematiche serie ed affronta problemi giovanili tuttora attuali, come l'immigrazione, l'uso di sostanze stupefacenti nelle discoteche, il razzismo, che non risparmia i protagonisti italoamericani marchiati con gli agnosi luoghi comuni di accidia e sciatteria, e anche il tema delle violenze tra le bande. Il film ebbe un successo straordinario, la colonna sonora della pellicola, per l'appunto Saturday Night Fever, composta per lo più da brani appunto celebri dei Bee Gees, vendette oltre, pensate un pochino, 40 milioni di copie in tutto il mondo, diventando una delle colonne sonore più vendute di tutti i tempi. Nel 2010 Saturday Night Fever è entrato a far parte della National Film Registry, che lo definisce storicamente e culturalmente significativo. La trama la leggiamo un pochino velocemente qua di Wikipedia. New York, anni 70, Tony Manero è un giovanotto 19enne di origine italiana che vive a Brooklyn. Dal carattere estroverso ma impulsivo e superficiale, egli lavora in un negozio di vernice e frequenta un gruppo di connazionali con i quali non perde l'occasione di compiere bravate, approfittare delle loro ingenuità, della loro giovane età. Compiono queste bravate soprattutto contro delle bande di portoricani. Tony ha un solo talento per il ballo, diciamo così, ha solo questo hobby. Ogni sabato sera frequenta con i suoi amici per l'appunto la discoteca 2001 Odissea, dove si guadagnano il rispetto dei coetanei e l'ammirazione delle donne, delle quali però non approfitta sessualmente a differenza dei suoi amici. Poi si parla anche di sesso, ci sono alcune scene un po' particolari, insomma, un pochino violente, diciamo così. La produzione del film è, pensate un pochino, è tratto da una pseudo inchiesta giornalistica di un quotidiano newyorkese sulla vita notturna della comunità povera metropolitana in contrapposizione alla vita mondana delle classi agiate di Manhattan. Appunto queste classi povere che si scatenavano nel fine settimana nei tempi della disco music, come per l'appunto lo studio 54. Le riprese si svolsero interamente a Brooklyn, nella zona sud orientale della città, presso il ponte di Verrazzano. E niente, questo era la, appunto, la prima canzone estratta dal film Saturday Night Fever, La febbre del sabato sera. Ora noi continuiamo con un'altra canzone e praticamente è un altro brano che è estratto da un film, questa volta però sempre americano, che in parte si rifà alla febbre del sabato sera. Il film lo vedremo tra poco, lo leggeremo a grandi linee, e questa invece è la canzone proprio di contorno di questo film. Arriva subito, ragazzi. Star Trek in compagnia di Andrea era Romeo and Juliet con Love and Kisses, colonna sonora di Grazie a Dio è Venerdì, un altro film musicale, sembra che si rifà un pochino il filone della febbre del sabato sera. Thank You God It's Friday, il titolo originale, è un film del 1978, quindi è uscito un anno dopo La febbre del sabato sera, che invece è del 1977, diretto da Robert Klein, prodotto dalla Motown Production e anche dalla Columbia Pictures. La pellicola mostra una delle prime performance di Jeff Goldblum e la prima apparizione di una certa rilevanza di Deborah Winger. La trama è la seguente: siamo nel 1978, come ogni venerdì sera nella mega discoteca The Zone, appunto a Hollywood, si intrecciano piccole e grandi storie, speranze, illusioni e ricerche di svago, di incontri di alcuni personaggi. Per esempio, potremmo citare i coniugi Sway e Dave, tanto per iniettare una nuova linfa al loro stato di rapporto borghese. Appunto, nel giorno del loro anniversario di matrimonio, decidono per l'appunto di andare in discoteca, luogo che Dave detesta. E queste sono le storie appunto che si intrecciano all'interno di questa pellicola molto bella. Vediamo qualche altra storia, eh? Poi c'è per esempio sempre nella stessa discoteca si svolge una gara di ballo verso mezzanotte con trasmissione in diretta registrata in diretta dalla stazione radiofonica KCDO. E appunto qua c'è questa gara di ballo. E poi ci sono anche Mandy e Jennifer in cerca di avventure, sono due impiegate. Persino lo spazzino comunale Gas invece ha un appuntamento organizzato tramite il computer. Ehi ragazzi, già a quei tempi probabilmente c'era già Badoo, no scherzo ragazzi. Tramite computer con Shirley, una zitella troppo alta per lui. E poi c'è un'altra, insomma è un film molto carino, grazie a Dio è venerdì, con una colonna sonora interessante, perché c'è Donna Summer, per farvi qualche esempio, The Commoners, per esempio, Diana Ross, Lego, quindi un film molto bello che ogni tanto viene, diciamo così, proposto dalla televisione italiana. Grazie a Dio e venerdì venne distribuito in Italia dalla Columbia, pensate un po', il 5 ottobre 1978. Ebbene, neanche tanto tardi, di solito magari i film americani uscivano un pochino più tardi. Siete sempre a bordo dell'astronave Enterprise con Andrea e con Star Trek Viaggio nella storia della musica. Ora andiamo avanti a ascoltarci la nostra musica, che questa sera vi ricordo è uno speciale molto bello dedicato principalmente alla febbre del sabato sera e poi ad alcune pellicole che ruotano attorno a questo capolavoro americano, perché hanno preso spunto, potrete definirli anche dei tarocchi un po' della febbre del sabato sera, però insomma anche loro hanno qualcosa di molto interessante e quindi ve li consiglio. Abbiamo per l'appunto ascoltato la prima canzone che era estratta da Febbre sabato sera, ora abbiamo ascoltato una canzone estratta da Grazie a Dio e venerdì, e ora ascoltiamo invece la colonna sonora, per l'esattezza mi pare il lato B di un vinile del film italiano. Ci spostiamo in Italia, ci spostiamo in Italia, ascoltiamo la colonna sonora, per l'esattezza del lato B, di La supplente va in città, con Lilli Carati. Il titolo della canzone è The Magic Touch, a cantare niente di meno che lui, Stelvio Cipriani, con lo pseudonimo di Anonimo Veneziano. The Magic Touch. Maestro Stelvio Cipriani con questo vinile dal titolo The Magic Touch, una delle due colonne sonore per l'appunto del film La supplente va in città. Leggiamo velocemente la trama, estratta da Wikipedia. Rubina, per l'appunto, è Carmen Villani, Carmen Villani. Va a Roma per cercare il fidanzato che l'ha illusa a farsi sposare, ma questi rifiuta e per vendetta lo denuncia per stupro. Dopo questa operazione diventa cameriera di una famiglia, poi commessa del loro negozio di abbigliamento, dove conquista tutti e si sposa con il figlio del titolare. Insomma, è una pellicola in bilico tra la commedia e la commedia erotica, insomma, di fine anni 70. Il film del 1979, diretto da Vittorio De Sisti, per l'appunto. L'attrice principale è, per l'appunto, Carmen Villani, poi c'è Vincenzo Crocetti, Mauro Frittella, insomma, dei grandi nomi, direi, insomma. E anche questa pellicola si rifà un pochino La febbre del sabato sera. Lo potete vedere, mi pare, in giro sul web, la trovate. Ora siamo arrivati in Italia, per quanto concerne invece le pellicole che si rifanno, sono, diciamo così, è giusto chiamarle il tarocco della febbre del sabato sera? Penso di sì. Allora, dopo Anonimo Veneziano, ascoltiamo un'altra colonna sonora che è di un altro film sempre italiano, che si rifaceva anche lui alla febbre del sabato sera. Sto parlando di Johnny Travolto in Da un insolito destino. Questa è la colonna sonora. Questo disco, purtroppo, siamo al termine di Star Trek Viaggio nella storia della musica, questa sera speciale dedicato alla febbre del sabato sera, dedicato a tutte quelle pellicole che ruotano attorno a questo capolavoro americano, insomma pellicole che magari hanno preso spunto, per l'appunto, da questo capolavoro a stelle e strisce. Era Johnny Travolto da un insolito destino. Vediamo velocemente questo film. È un film uscito nel 1979, diretto da Neri Parenti, pensate un po'. La trama è la seguente: il timido Gianni viene coinvolto dagli amici a sfruttare la sua incredibile somiglianza con John Travolta per fare breccia nel cuore di Ilona. Ilona è, per l'appunto, l'attrice Hard Ilona Staller, che ha partecipato a questo film, insomma, molto acqua e sapone, direi, e fa la DJ in un locale. E niente, il film è questo, c'è Enzo Cannavale di attore abbastanza famoso, poi per il resto c'è l'interpretazione di Ilona Staller e di Giuseppe Spezia, che fu scelto proprio dal regista per la sua notevole somiglianza con John Travolta. Abbiamo finito, era l'ultima canzone, bellissimo questo viaggio che abbiamo avuto questa sera. Saluto tutti gli amici che ci ascolteranno in podcast e ringrazio ancora tutte le persone che ci hanno ascoltato invece in diretta. Sul finale c'è una piccola sorpresa, dai, non vi voglio preannunciare nulla, ascoltatela perché è molto molto carina, a me piace molto, è una parte del film La febbre del sabato sera che adoro, che amo, che mi piace tantissimo. Buonanotte a tutti dagli anni 70, ciao, veramente questa sera l'astronave, esatto, eccolo qua, col teletrasporto ci ha portato negli anni 70 e io con lo stesso, col medesimo, me ne vo. Ciao a tutti, grazie per avermi ascoltato, ci risentiamo prossimamente, bye bye, teletrasporto e sorpresina per voi. Tony, ti voglio dire una cosa. Ieri io ti ho detto tutte quelle cose sul fatto che ti usavo, ti strumentalizzavo, no. Non era vero. Ci sono un sacco di ragioni per cui venivo con te. Per esempio? Mi facevi sentire bene. Mi sentivo ammirata.